una faccia così non ce l'hai. Ti sbagliavi, non cambio mai. Una doccia da un drink, poi bye bye. Cerchi un principe senza guai. C'è chi sogna un'auto nuova, una vita chic. A chi bastano due soldi per farsi un film. Ma io cerco poesia, una storia che aspetti la pioggia per scendere in strada. Ma se ti ho detto sei mia, è soltanto perché almeno tu creda all'eternità. Ho fatto pugni come al solito mio, ti ho chiesto scusa ma di solito io non credo a niente che sia per sempre. Ho fatto pugni come al solito mio, non è una scusa ma di solito io non credo a niente che sia per sempre. Tu una faccia così non ce l'hai. Ti sbagliavi, non cambio mai. Non cambierò, come non cambia chi soffre. Come le facce in un bar alle due di notte. Tu credevi un per sempre, io credo solo a me stesso. Tu che ascolti il tuo cuore, mi freddo come l'inverno. Un po' di frasi banali sopra i muri del centro. Che a cancellarle ci penserà il tempo. Qualche rosa sul cruscotto per un appuntamento. Capastirà nel cercare parcheggio e siamo simili, lo ammetto. Freddi come le frasi che dico dentro il tuo letto. Finti come sorrisi che fai davanti allo specchio. Per essere bella, fin troppo bella per quello che ho dentro. Per quello che ho dentro. Se ti ho detto sei mia, è soltanto perché almeno tu creda all'eternità. Ho fatto pugni come al solito mio, ti ho chiesto scusa ma di solito io non credo a niente che sia per sempre. Ho fatto pugni come al solito mio, non è una scusa ma di solito io non credo a niente che sia per sempre. Dimmi che serve fingere che sia per sempre, se non ci serve. Dimmi che serve fingere che sia per sempre, se non ci serve. Ho fatto pugni come al solito mio, ti ho chiesto scusa ma di solito io non credo a niente che sia per sempre. Ho fatto pugni come al solito mio, non è una scusa ma di solito io non credo a niente che sia per sempre. Una faccia così non ce l'hai. Ti sbagliavi, non cambio mai.